Radio 24 Reportage. Flexi Security alla svedese. Più protezione, meno flessibilità. Di Sergio Nava. Sono le 6.50 del mattino e ci troviamo sul ponte che collega Copenaghen a Malmo, un'opera che ha rappresentato una svolta per questa regione, ha collegato due città che prima praticamente erano separate. Ora si è creata un'unica grande macro regione che unisce la Danimarca alla Svezia. Il treno è semivuoto anche perché normalmente si riempie nel tratto contrario. Stiamo arrivando in questo momento a Malmo e andiamo a indagare insieme il modello di Flex Security svedese. Parte dal ponte dell'Øresund, una delle più grandi opere infrastrutturali europee di questo inizio millennio, la nostra inchiesta nel mercato del lavoro della Svezia, un altro modello nordico che poggia le proprie fondamenta sul concetto di Flex Security, declinato però, come vedremo, alla svedese, con solide basi di tradizione socialdemocratica, un po' meno flessibilità, con molta sicurezza, rotta verso la regione della Scania. We make a quick registration. Quando un disoccupato arriva da noi, lo registriamo nel database, facciamo una valutazione delle opportunità sul mercato del lavoro, poi definiamo quali servizi specifici attivare, ci spiega Dimitrios Skifiakos, manager dell'Arbetsförmedlingen, il centro pubblico per l'impiego svedese. Nel suo ufficio di Malmo lavorano 100 dipendenti per un bacino di circa 10.000 disoccupati. Almeno 6 disoccupati su 10 si presentano qui e anche tra i datori di lavoro la fiducia è alta. Dimitrios, di origine greca, è un classico caso di seconda generazione, in una città dove 4 abitanti su 10 sono nati fuori dalla Svezia o sono figli di immigrati. Mi spiega come il sussidio di disoccupazione a Monti in Svezia ha 300 giorni estendibili di altri 150 nel caso di figli minorenni. We provide for the employers two services. Noi forniamo due tipi di servizi alle imprese. Il primo, organizziamo per loro i colloqui, oppure, secondo, possiamo pubblicizzare le offerte di lavoro, tutto gratuitamente. Non rendersi disponibili ad accettare un lavoro, però, ha un prezzo. Se qualcuno rifiuta l'impiego, stendiamo un rapporto. In alcuni casi l'assegno di disoccupazione viene tagliato, spiega Dimitrios. E attenzione, la crisi ha colpito anche qui. Lo vediamo dalla diminuzione degli annunci di lavoro. Per gli europei c'è però un vantaggio. Se sei un cittadino comunitario, puoi venire qui e portarti dietro per 3 mesi il tuo sussidio di disoccupazione nazionale per provare il sistema svedese, afferma Dimitrios. Conclusa l'intervista, Dimitrios ci mostra orgoglioso il suo ufficio, che non ha nulla da invidiare a un'azienda privata. Ciascun dipendente ha una scrivania moderna, con piano regolabile. Al piano terra una giovane funzionaria accoglie i disoccupati in cerca di lavoro, distribuendone il flusso. Malmo non è un'isola felicissima in Svezia. La media di disoccupazione si aggira intorno al 14%, quasi il doppio rispetto al resto del paese. A incidere negativamente, oltre all'attuale crisi, la fine dell'industria manifatturiera, il passaggio a quella dei servizi. All'ingresso avvicino alcune delle persone in cerca di lavoro. I've been a nurse in my home country. Gertrud, 31 anni, è di origine ghanese. Nel suo paese era un'infermiera. Sta provando a cercare lavoro in questo settore. Vive in Svezia da 5 anni. Finora ha speso molto tempo per riqualificarsi e imparare lo svedese. È fiduciosa. Il sistema sanitario locale ha bisogno di professionisti nel settore medico. Secretary at office. Marie, 52 anni, cerca un lavoro come segretaria. Viene al centro 3 volte la settimana per consultare le offerte. Ha avuto già dei colloqui, ma non ha ancora trovato lavoro. Angela e Lily sono due amiche che hanno appena concluso le scuole superiori. Entrambe cercano lavoro negli ospedali, nella cura dei pazienti o delle persone anziane. Vengono al job center da 7 mesi. Lily non è per nulla preoccupata dalla crisi. Angela è meno ottimista, 3 anni fa era meglio. E Lily ammette, non è facile, occorre spesso avere una formazione specifica. Education and no, maybe Hosanna Gymnasium. Lascio il job center con una convinzione. In Svezia, ancora forse più che in Danimarca, il lavoro è più che mai un diritto. Al cittadino è ovviamente riservato il dovere di dare il massimo nel cercare impiego, anche se nella tradizionalmente socialdemocratica Svezia appaiono un po' più tolleranti rispetto ai vicini danesi. Partiamo da Malmo e percorriamo solamente 20 km in treno, una decina di minuti o poco più con gli efficientissimi convogli regionali svedesi che ci recapitano a Lund, città universitaria a cielo aperto. Qui l'Ateneo è stato fondato nel 1666, 8 anni dopo l'annessione della Scania alla Svezia, per riportare anche culturalmente il controllo di Stoccolma sulla regione. A Lund incontriamo 2 esperti di Flex Security. Il quid fondamentale, la barriera che separa il modello svedese da quello della vicina Danimarca, è il primo pilastro, quello della flessibilità. In Svezia la protezione del lavoratore è più alta, come spiega la professoressa Mia Ronmar, docente di diritto del lavoro. In Sweden we have statutory employment protection or job protection. In Svezia abbiamo uno statuto dei lavoratori che fornisce protezione a tutti i dipendenti. Questa è la differenza principale con la Danimarca. Abbiamo requisiti di giusta causa per tutti i licenziamenti. È molto importante nel nostro modello la distinzione tra licenziamenti per ragioni personali o per ragioni economiche. Il modello svedese prevede il reintegro del lavoratore licenziato per ingiusta causa, mentre quando c'è licenziamento per crisi, il sistema lascia un certo grado di flessibilità al datore di lavoro. Solo l'imprenditore può decidere se c'è un surplus di dipendenti e di conseguenza procedere ai licenziamenti, spiega la Ronmar. Il risultato di questa maggiore protezione sul luogo di lavoro è stata una minore flessibilità in entrata. Le imprese hanno cominciato a fare maggiore ricorso ai contratti a tempo determinato, penalizzando soprattutto i giovani. Recentemente il governo svedese ha introdotto un limite all'utilizzo del tempo determinato, obbligando le imprese a trasformare in indeterminato questi contratti dopo 2 anni di lavoro. Intanto però la disoccupazione giovanile resta alta al 24%. Ma, sottolinea la professoressa Åsa Lundqvist, docente di sociologia, la Svezia vive un paradosso opposto all'Italia. La trasformazione del tessuto produttivo dall'industria ai servizi ha alzato il tipo di domanda di lavoro. Si cercano insomma giovani qualificati. You can actually see where those young people are unemployed. Il maggior tasso di disoccupazione giovanile è radicato soprattutto nei villaggi, nella campagna, parliamo di città dove c'erano industrie locali che hanno chiuso. Si tratta soprattutto di giovani poco qualificati. Ora i lavori sono soprattutto nelle aree urbane, è anche un problema di transizione da un'industria all'altra, spiega Åsa Lundqvist. So it's very very difficult for those young people and they are not often very highly educated. La professoressa Lundqvist ci ricorda che sul secondo e terzo pilastro della flexicurity, la protezione del lavoratore e le politiche attive per il ricollocamento, Svezia e Danimarca si assomigliano molto di più. Qui l'aiuto a chi ha perso il lavoro passa per 3 fasi successive: l'assicurazione contro la disoccupazione, il supporto alla riqualificazione e infine l'assistenza sociale per i disoccupati di lunga durata con coperture finanziarie molto più limitate. Lasciamo la splendida cittadina di Lund, perfetto esempio di compenetrazione tra tessuto urbano e cittadella universitaria, per fare ritorno a Malmo. C'è un altro tema da affrontare. La capitale della Scania ha una quota di immigrati molto alta, come spiegavamo all'inizio, e non è un mistero che, almeno sul luogo di lavoro, esista un certo razzismo. A rendere più complicate le cose il fatto che da qualche tempo gli immigrati finiscono direttamente al centro per l'impiego, senza più passare dai servizi sociali. Un escamotage per accelerare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Ma funziona? We have great problems. Andreas Schönström, socialdemocratico, è vice sindaco di Malmo con delega al mercato del lavoro. Non si nasconde. Abbiamo grandi problemi qui. Il principale è il tasso di disoccupazione. Pensi che negli ultimi 2 anni abbiamo ricevuto più rifugiati dall'Iraq in questa città di quanto non abbiano fatto tutti gli Stati Uniti. E la guerra l'hanno fatta loro. Quali politiche attive mettete in campo, gli chiedo? Cerchiamo di fare in modo che gli immigrati ottengano presto una casa, che i loro bambini si iscrivano a un asilo, mentre ai genitori offriamo corsi di svedese, associati a una formazione nei settori lavorativi per i quali c'è maggiore richiesta. Per Schönström ciò avviene nell'interesse nazionale. Molte delle nostre aziende non sopravviverebbero senza immigrati. Siamo un grande paese, ma con una popolazione molto piccola. Se vogliamo competere con il resto del mondo, dobbiamo assicurarci forza lavoro. In un quartiere affacciato sul Mar Baltico, a 2 passi dall'avveniristico Turning Torso del noto architetto spagnolo Santiago Calatrava, divenuto negli ultimi anni il simbolo della città, vive Jernet. La sua storia è paradigmatica dei vantaggi di un sistema di flexicurity. Lavorava in Danimarca come consulente di comunicazione, poi ha deciso di cambiare carriera e diventare psicologa, trasferendosi in Svezia. Si è licenziata e si è iscritta all'università. Lo Stato svedese le ha fornito un prestito per finanziare gli studi. Contemporaneamente ha aperto una sua azienda di coaching, il tutto online e in pochi giorni, senza burocrazia. 0 costi. Pagherà tasse solo sui profitti. Un altro mondo. Sente che un simile cambio di carriera non sarebbe stato possibile in un altro paese europeo. When you look at the countries that have implemented different flexicurity measures. Quando lavorava a Bruxelles 5 anni fa, realizzò per la Commissione europea un rapporto sull'esportabilità del modello di flexicurity. I paesi piccoli fanno meglio dei paesi grandi in questo senso. Ciò che accomuna i paesi scandinavi è la loro omogeneità. Il modello di flexicurity è più difficile da implementare in paesi più grandi, meno omogenei internamente, dice Jarnet. It's harder in larger countries. Scrive Marco, ricercatore italiano, sul social network professionale LinkedIn. Lavoro in Svezia, diritti, gerarchie piatte, efficienza del sistema, burocrazia minima, valorizzazione del giovane come risorsa innovatore, responsabilità versus età, prospettive di crescita, networking, educazione gratuita, fortissimo senso civico-sociale. Questo è il vero valore della mia esperienza di essere giovane e lavorare all'estero. Anche questo, anzi, tutto questo, aggiungiamo noi, è Flexicurity. Alla svedese, ovviamente. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.